resistere. Gocce di veleno sono tracce di un sentiero in cui io mi perderei. E sa chi non sorrido, rido in preda alla follia. Ballo un tango con i demoni presso nella foschia. Sento un motivetto e mi risveglio poco dopo, con la testa che mi scoppia e con in mano la tua foto. Io sono un principe che ubriaco siede al trono. Ho violentato ogni valore che rende giustizia a un uomo. Calpestato ogni nemico e adesso qui barcollo per cadere sul tappeto con un morire, mozzo sul mio collo. Veleno. Rido di tutto quel tempo che mi hai portato via, che credevi che in preda alla malinconia avrei fatto di te una dolcissima poesia. Sono sempre quel principe che non ha notti limpide, che vive sempre al limite e resta sempre impassibile. Io non soffro, io bestemmio e maledico. Magari ci credessi a tutto quello che dico. Veleno. Sono gocce di veleno che mi dai e a cui non so resistere. Gocce di veleno sono tracce di un sentiero in cui io mi perderei, nel buio in cui non sai più uscire. Lasciami non perdermi tra le tue braccia. Ora puniscimi, puniscimi. See you.